Benvenuti a Abba Waller, siamo qui con Cecilia Miradoli, l'organizzatrice della NLT Rock Festival, un festival indie, giusto Cecilia? Ciao, sì, sono Cecilia e il festival è NLT, in realtà A Night Like This Festival, dalla canzone dei Cure, A Night Like This. Fantastico, dove si terrà questo festival? Ma guarda, non tanto lontano dove sei tu in questo momento. Allora, si terrà a Chiaverano, come l'anno scorso, questa è la seconda edizione. Chiaverano è a pochissimi chilometri da Ivrea, quindi Piemonte, Torino, come provincia, e si svolgerà nella grande piazza del paese, sul prato, un po' sul lago, insomma, sarà una giornata con tutta la notte di musica, festa e tante belle altre cose che adesso poi ne parliamo. Bene, il bene. 20 di luglio, ecco, il 20 di luglio, detto. Esatto, volevo chiederti proprio questo. Tu sai che noi siamo una radio in Creative Commons, voi al vostro festival ospitate molte etichette indipendenti e anche artisti in Creative Commons, giusto? Assolutamente sì, io sono da anni una sostenitrice della Creative Commons, tanto è vero che come band il nostro gruppo ha dei dischi su varie, insomma, situazioni di Creative Commons e cerchiamo di far conoscere questa alternativa alla, non dico che cosa, ma lo dite voi eventualmente. No, beh, si può assolutamente dire, la SIAE, la SIAE sa benissimo che esiste il Creative Commons. Soprattutto di musica indipendente, visto che si tratta di gruppi che comunque lavorano, producono arte, così come avviene in tutto il resto del mondo, fuori dal circuito, dal grosso circuito commerciale, dai circuiti SIAE, perché si tratta appunto di musica indipendente, che ha comunque dei grossi canali di esposizione e anche di risultati, ma non quelli tradizionali delle major e della SIAE. Quindi è il bacino giusto per far conoscere queste possibilità alternative a chi ancora non le dovesse conoscere. Esatto, infatti voi ci avete contattato insieme a Radio Lifestyle per venire a promuovere la cultura Creative Commons. Noi saremo da voi con un banchetto informativo, cercheremo di fare delle interviste agli artisti. Ti volevo chiedere una cosa, come mai questo festival? Perché questo festival e perché il contesto di Chiaverano vicino a noi? Allora, vabbè, noi siamo tutti musicisti, comunque persone che lavorano nell'ambito della musica, un'associazione culturale no profit, e il concetto è di promuovere la musica, soprattutto la musica un po', diciamo, alternativa e indipendente, che è quella che facciamo anche noi, peraltro. Perché? Perché si vuole dare in Italia quello stesso tipo di idea, di sensazione, di contesto che c'è già all'estero in un sacco di posti e che va tra l'altro tantissimo, ci sono festival enormi in tutta Europa con partecipazioni molto grosse di quelle che ci sono in Italia, di questo genere musicale che diventa poi mainstream, mentre invece in Italia è ancora di nicchia. Allora perché non cercare di farlo crescere? Farlo crescere vuol dire sposare però la musica al turismo, alla bellezza dei luoghi, perché l'Italia questo è. E secondo noi era importante legare le due cose, perché la musica da sola, proprio perché è una musica, tra virgolette, un po' colta, non proprio commerciale, pronti di uso e getta, da sola non è in grado forse di convogliare l'attenzione di anche persone che non sono addette ai lavori. E quindi da qui la scelta di un posto bello come Chiaverano, che fosse immerso nella natura e potesse dare però una rilevanza giusta, visto che raccoglie gente da Torino, da Milano, vengono dalla Val d'Aosta, l'anno scorso c'erano anche degli stranieri, perché noi abbiamo poi anche degli stranieri al festival, quindi si sparge la voce, si popola di persone che non conoscevano il posto, che tornano anche durante l'anno, comunque che ne parlano. La cosa poi si ingrandisce e si spera che arrivi a più persone possibile anche il tipo proprio di proposta musicale. Certo, quindi parliamo di etichette indipendenti, parliamo di Creative Commons, noi sicuramente parliamo di Creative Commons e del suo modello economico. Secondo te il modello economico del Creative Commons può funzionare? Ma secondo me è l'alternativa giusta, cioè voglio dire, noi sappiamo che ormai ci sono quintalate di musica nell'etere ovunque, quindi che senso ha fare nella maniera tradizionale, tra l'altro che c'è solo in Italia. Io credo che sia il modello vincente per per far circolare il più possibile la musica, farla conoscere e fare in modo che comunque non è che chi fa musica non deve guadagnare, perché non è giusto, perché è un lavoro come gli altri, però lo fa attraverso canali alternativi che non sono semplicemente la passazione dei massimi sistemi, insomma. Cioè, certo, quindi una formazione dell'artista in base a quello che ha da dire e alla sua bravura. Noi cercheremo di fare questo come Radio Bawalla, cercheremo di spiegare il modello economico agli artisti, perché gli artisti che sono lì, alcuni addirittura non hanno nessuna registrazione se non è. Esatto, alcuni non sono, molti sono già attivi, girano, suonano, eccetera, però o sono in Creative Commons o non sanno ancora esattamente, non sanno neanche dove andarsi a iscrivere se è necessario farlo. Perché appunto trovano dei canali diversi che non sono quelli classici, quando vanno a doversi invece mettere in un canale classico l'unica possibilità che si ritrovano davanti è l'iscrizione alla SIAE e la SIAE, invece c'è quest'altra possibilità che non vuol dire non suonare, anzi non vuol dire non registrare, anzi non vuol dire non far ascoltare la propria musica, anzi, quindi è importante che uno possa scegliere tra le due forme. Non sto dicendo che non deve iscriversi alla SIAE, ci mancherebbe, assolutamente, però è molto più semplice per un artista iniziare in Creative Commons, perché non ha spese di registrazione alla SIAE, andiamo sul duro, no? Non ha spese di registrazione alla SIAE, non deve pagare l'SCF. No, e poi ci sono comunque, se uno poi va a verificare, ci sono tutte le varie possibilità all'interno della Creative Commons, no? Bene. Cioè, quindi può decidere se ha fatto un disco, come metterlo dentro una situazione di Creative. Cioè, ci sono varie possibilità. Io la consiglio, noi l'abbiamo fatto, noi siamo passati tra l'altro da disco in etichetta con le edizioni e tutto il resto, fino poi arrivare a fare tutto da soli e stare in Creative Commons. Abbiamo fatto 4 dischi, alla fine. E passate anche su Radio Bawalla, lo sapete, vero? È grandioso, mi fa molto piacere. Cecilia, io ti ringrazio molto. Consiglio a tutti i nostri ascoltatori di andare a fare un giro all'NLT Rock Festival, perché è un contesto veramente bello, è un contesto veramente eterogeneo, si trova gente veramente di tutti i tipi e molto allegra, presa bene, insomma. Poi siamo tutti appassionati, lo facciamo per passione, e tra l'altro è una cosa, questo ci tengo a dirlo, perché proprio perché parliamo di Creative Commons, noi siamo un'associazione che lo fa autofinanziandosi, cioè noi non abbiamo finanziamenti, non abbiamo aiuti, facciamo tutto noi, l'unico aiuto che abbiamo è da un punto di vista logistico, organizzativo, il Comune di Chiaverano, che ringrazio perché comunque ci aiuta, ci dà il posto dove farlo e ci aiuta proprio a livello pratico con tutta una serie di accorgimenti che sennò da soli non riusciremo a fare, però lo facciamo tutti da soli, quindi ci perdonerete se sarà una cosa, insomma, fatta da noi, non magari Heineken o chissà cosa, però c'è tutto il nostro cuore, tutta la nostra passione in questa cosa qui. Certo, posso già dire agli ascoltatori di Radio Bawalla che l'evento sarà grandioso, perché io sono stato all'evento dell'anno scorso e ne sono rimasto veramente colpito, e per l'organizzazione e per la qualità dei contenuti proposti. Quindi Cecilia, grazie. ti ringraziamo e buona continuazione nella preparazione. Grazie a te Marco, ciao. Ciao, ciao, ciao.